Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Un pomeriggio, Rochester incontrò per caso me e Adele nel parco. E mentre lei giocava a volano e si divertiva con Pilot, lui mi chiese di passeggiare per un lungo viale di faggi senza perdere di vista la bambina. Mi raccontò allora che Adele era figlia di una ballerina dell'opera, Céline Varin, per la quale aveva un tempo nutrito quella che definì una grande passion. Passione che Céline aveva giurato di ricambiare con intensità perfino superiore alla sua. Ed ero così lusingata dalla predilezione di quella silfide gallica per lo gnomo britannico signorina Eyre, che le misi a disposizione un palazzetto tutto per lei. La dotai di una squadra di domestici, una carrozza, stoffe pregiate, diamanti, pizzi. Insomma, mi avviai verso la rovina nel modo più banale del mondo, come un qualunque merlo innamorato. Capitai da Céline una sera in cui non mi aspettava e non la trovai. Ma era una serata calda ed ero stanco di passeggiare per Parigi, perciò mi sedetti nel suo salotto, felice di respirare l'aria consacrata dal suo recente passaggio. No, sto esagerando. Non ho mai pensato che lei possedesse virtù sacre. Più che un odore di santità, quello che aveva lasciato era un olezzo persistente, un aroma di muschio e ambra. Stavo giusto cominciando a soffocare tra quegli effluvi di fiori di serra e di essenze artificiali, quando pensai di aprire la finestra e uscire sul balcone. La sera era rischiarata dalla luna e dai lumi a gas, e l'aria era tersa e immobile. Sul balcone c'erano un paio di poltrone. Mi sedetti a fumare un sigaro. A un tratto, nel chiarore della sera cittadina, riconobbi tra le altre l'elegante voiture che avevo regalato a Céline, trainata da una bella coppia di cavalli inglesi. Stava tornando. Mentre mi appoggiavo contro la ringhiera di ferro, il cuore naturalmente prese a battermi per l'impazienza. La carrozza, come mi aspettavo, si fermò davanti alla porta del palazzetto. La mia fiamma scese. Sebbene avvolta in un mantello, un impaccio inutile in quella tiepida sera di giugno, la riconobbi all'istante dal piedino che sbucò dall'orlo dell'abito mentre balzava giù dal predellino. Sporgendomi dal balcone stavo per sussurrare «Mon ange!» in un tono va da sé che solo l'orecchio dell'amata avrebbe udito, quando alle sue spalle scese anche un'altra figura, pure avvolta in un mantello. Ma era un piede munito di sperone quello che avevo sentito risuonare sul selciato, ed era una testa sormontata da un cappello, quella che passava sotto l'arco della porta principale. Sapete cos'è la gelosia, signorina Eyre? No, non c'è bisogno che ve lo chieda, perché non sapete che cos'è l'amore. Vi mancano entrambi i sentimenti. La vostra anima dorme. E il colpo che la risveglierà non è ancora arrivato. Siete convinta che tutta l'esistenza scorra in un flusso tranquillo, così come è trascorsa la vostra giovinezza fin qui. Mentre vi lasciate trasportare dalla corrente con gli occhi chiusi e le orecchie tappate, non vedete i massi che affiorano a poca distanza da voi nel letto del fiume, né sentite l'acqua che ribolle contro la roccia. Ma vi avverto, e ricordate queste parole, che un giorno arriverete in un punto accidentato, dove il corso della vostra vita finirà risucchiato in un vortice, tra tumulto, schizzi, fragore, e allora vi sfracellerete su quelle rocce puntute. O un'onda più alta vi solleverà consegnandovi a una corrente più calma. Dove sono io, adesso? In quel momento Adele gli sfrecciò davanti col volano. Via! Gridò lui in tono aspro. Sta lontana da me, bambina, o torna dentro da Sophie. quando riprese a camminare in silenzio, mi arrischiai a riportarlo al punto in cui aveva bruscamente cambiato discorso. E quando Mademoiselle Varenne entrò, chiesi: «Voi pure rientraste in casa?» Mi aspettavo che rifiutasse seccamente di rispondere a quella domanda così poco opportuna, e invece, riscuotendosi dal malumore in cui era piombato, volse gli occhi nella mia direzione e la sua espressione parve rasserenarsi. «Rimasi sul balcone?» «Verranno di sicuro nel salottino di Céline», pensai, «e li sorprenderò». Perciò tirai la tenda, lasciando solo uno spiraglio per poter guardare dentro. Dopodiché chiusi i battenti, tranne una finestra per lasciare uscire i bisbigli dei due innamorati. Infine tornai zitto zitto a sedermi. E a quel punto la coppia entrò nella stanza. Cominciarono a parlare e la loro conversazione mi rassicurò del tutto. Frivola, mercenaria, superficiale e sciocca, sembrava fatta per annoiare chi l'ascoltava piuttosto che indignarlo. Sul tavolo c'era un mio biglietto da visita e quando i due lo notarono si misero a parlare di me. Nessuno dei due aveva abbastanza verve o spirito per ferirmi davvero. Ma mi offesero con tutta la volgarità delle persone meschine. Soprattutto Céline, che si mostrò addirittura brillante nell'elencare i miei difetti fisici. O meglio, le mie deformità, come le chiamava lei. Aprii la finestra e andai verso di loro. Dissi a Céline che non era più sotto la mia protezione e diedi disposizioni affinché liberasse la casa, offrendole anche una somma per le necessità immediate. Ignorai le grida, gli esterismi, le suppliche, le proteste, le convulsioni e fissai un appuntamento col visconte al Bois de Boulogne. Il mattino seguente ebbi il piacere di affrontarlo e di infilare un proiettile in una di quelle povere braccia deboli come aluce di pollo malato. Dopodiché ritenne di aver chiuso con tutta la combriccola. Sfortunatamente però, 6 mesi prima, la Varenne mi aveva affidato la piccola Adele, giurando che era mia figlia. Potrebbe anche esserlo, sebbene non veda le prove di questa triste paternità sul suo viso. Mi somiglia di più Pilot. La signora Fairfax ha trovato voi per istruirla, ma adesso, sapendo la figlia illegittima di una ballerina francese, vedrete il vostro incarico e la vostra protégée sotto un'altra luce. Un bel giorno verrete a informarmi che avete trovato un altro posto. Non è vero? No. Adele non è responsabile per le colpe di sua madre e neppure per le vostre. È mia cara. E adesso, sapendo che è in un certo senso un'orfana, abbandonata dalla madre e rinnegata da voi, signore, le starò ancora più vicina. Ah, è così che la vedete voi. Bene, ora devo rientrare. E anche voi, tra poco farà buio. Fu solo dopo essermi ritirata in camera mia per la notte che ripensai seriamente a quello che mi aveva raccontato il signor Rochester. Come aveva detto lui, probabilmente non c'era nulla di straordinario nella vicenda. La passione di un ricco inglese per una ballerina francese, il tradimento di lei, erano senza dubbio faccende abbastanza comuni nel bel mondo. E tuttavia c'era qualcosa di bizzarro nell'intensa emozione che lo aveva improvvisamente colto mentre esprimeva la soddisfazione attuale, il rinnovato piacere che provava davanti alla vecchia casa e alla campagna intorno. Riflettei perplessa sull'episodio, ma poi, non trovando per il momento una spiegazione, pian piano lasciai perdere e pensai all'atteggiamento che il padrone di casa aveva nei miei confronti. La confidenza che aveva riposto in me mi sembrava un omaggio alla mia discrezione e la considerai e accettai come tale. Da qualche settimana si comportava con me in maniera più coerente che all'inizio. Sembrava che non gli dessi alcun fastidio e non accadeva più che di punto in bianco si mostrasse freddo o altezzoso. Se ci incontravamo per caso, sembrava che incontrarmi gli facesse piacere. E aveva sempre una parola e talvolta anche un sorriso per me. Ero tanto felice, tanto gratificata da questo nuovo interesse che arricchiva la mia vita, che smisi di provare il desiderio struggente di avere anch'io una famiglia. Il sottile spicchio di destino che mi era toccato sembrava ampliarsi. I vuoti dell'esistenza si riempivano. La mia salute migliorò. Mi arrotondai e divenni più forte. E il signor Rochester era ancora brutto ai miei occhi? No, lettore. La gratitudine e diverse associazioni mentali, tutte allegre e gradevoli, facevano del suo viso l'oggetto che più mi piaceva contemplare, e la sua presenza in una stanza mi rallegrava più di un bel fuoco acceso. Tuttavia non avevo dimenticato i suoi difetti. In realtà era impossibile dimenticarsene, visto che me li metteva così spesso davanti agli occhi. Era orgoglioso, sarcastico, intransigente, e dentro di me sapevo che la sua grande benevolenza nei miei riguardi compensava l'ingiusta severità verso tanti altri. Oltretutto piombava spesso nel cattivo umore e in maniera imprevedibile. Più di una volta, dopo che mi aveva mandata a chiamare perché gli leggessi qualcosa, l'avevo trovato seduto da solo nella biblioteca con la testa sulle braccia e, quando guardava in su, un'espressione cupa, imbronciata, quasi malevola, gli offuscava i lineamenti. Io ritenevo però che il suo carattere lunatico, la sua intransigenza, i suoi difetti di un tempo, di contempo, perché adesso sembrava migliorato, avessero origine in qualche crudele gioco del destino. Ero convinta che per natura fosse un uomo buono, che in lui la materia prima fosse eccellente, anche se per il momento era tutto ingarbugliato e alla rinfusa. Il suo dolore, di qualunque natura fosse, mi faceva soffrire e avrei dato qualsiasi cosa per lenirlo. Benché ormai avessi spento la candela e fossi distesa a letto, non riuscivo a prendere sonno pensando al suo sguardo quando si era fermato nel viale e mi aveva detto che il destino si era levato dinanzi a lui e lo aveva sfidato a essere felice a Thornfield. «Perché no?» mi domandai. «Che cosa lo allontana da questa casa? Se ne andrà presto, di nuovo?» Non so davvero se mi addormentai o no dopo queste riflessioni. Comunque sia, sentendo un vago mormorio lugubre del tutto particolare proprio sopra la mia testa, mi svegliai di colpo. Rimpiansi di non aver lasciato accesa la candela. Era spaventosamente buio e mi sentivo molto abbattuta. Mi misi a sedere sul letto tendendo l'orecchio. Il rumore cessò. Cercai di riaddormentarmi, ma il cuore mi batteva per l'agitazione. Udii in lontananza la pendola che batteva le due. Proprio in quel momento mi sembrò che qualcuno toccasse la porta della mia camera, come se delle dita avessero strisciato sui battenti nel tentativo di trovare a tentoni la strada lungo il ballatoio. «Chi è?» dissi. Nessuna risposta. La paura mi raggelò. Il silenzio distende i nervi e, visto che ormai in tutta la casa regnava una pace assoluta, mi tornò il sonno. Ma non era destino che dormissi quella notte. Un sogno mi aveva appena sfiorato la mente quando fu messo in fuga atterrito da un fatto che mi fece rabbrividire fino al midollo. era una risata demoniaca, bassa, profonda, soffocata, che sembrava provenire proprio dal buco della serratura della mia camera. La testata del letto era vicino alla porta e all'inizio pensai che lo spirito malvagio fosse di fianco a me, o meglio, rannicchiato sul mio cuscino, ma quando mi alzai per guardarmi intorno non vidi nulla. Mentre ero ancora intenta a scrutare, quel suono innaturale si ripeté e fui certa che arrivava da dietro i battenti. Il mio primo impulso fu di alzarmi e mettere il chiavistello alla porta e il secondo di gridare ancora «Chi è?». Allora si udì un gorgoglio e un gemito. Poco dopo dei passi risalirono il ballatoio verso la scala che portava al terzo piano, dove di recente era stata aggiunta una porta per isolare quella zona dal resto della casa. La sentii aprirsi e richiudersi e poi calò il silenzio. Era Grace Poole. Era posseduta da un demonio, pensai. Impossibile rimanere sola un attimo di più. Dovevo andare dalla signora Fairfax. Mi infilai in fretta il vestito e mi buttai addosso uno scialle, dopodiché tolsi il chiavistello. Con mano tremante aprii la porta. Appena oltre la soglia, sulla passatoia, c'era una candela accesa. Ne fui sorpresa, ma ancora di più trasecolai nel vedere l'aria offuscata e come satura di fumo. E mentre guardavo a destra e a sinistra per vedere da dove provenissero quelle volute azzurrine, sentii anche un forte odore di bruciato, udii uno scricchiolio, una porta che si schiudeva. Era quella del signor Rochester, e il fumo usciva di lì. In un attimo fui dentro la stanza. Mille lingue di fuoco guizzavano tutto intorno al letto, le tende del baldacchino erano in fiamme, in mezzo a quelle vampate e al fumo, immobile. Profondamente addormentato c'era Rochester. «Svegliatevi, svegliatevi!» gridai. Provai a scrollarlo, ma lui si limitò a mormorare qualcosa e si girò dall'altra parte. Il fumo lo aveva intontito. Non c'era un momento da perdere. Le lenzuola avevano già preso fuoco. Mi precipitai a prendere brocca e catino. Per fortuna la prima era capiente, il secondo ampio, ed erano entrambe pieni d'acqua. Li sollevai e inondai il letto e il dormiente. Poi corsi nella mia stanza a prendere anche la mia brocca. Battezzai nuovamente il giaciglio e con l'aiuto di Dio riuscii a spegnere le fiamme che lo stavano divorando. Lo sfrigolio del fuoco che si spegneva, il rumore della brocca infranta che avevo lanciato lontano dopo averla vuotata e soprattutto l'acqua che gli avevo rovesciato addosso in abbondanza svegliarono infine il signor Rochester. Nonostante adesso fosse buio pesto, capii che era sveglio perché lo sentii inveire e pronunciare strane imprecazioni nel trovarsi tutto bagnato. «Ma la casa è allagata!» urlò. «No, signore, c'è stato un incendio. Alzatevi, adesso è spento. Vado a prendervi una candela.» «In nome di tutti gli elfi del mondo, siete voi, Jane Eyre? Che cosa mi avete fatto, strega incantatrice? Chi c'è nella stanza oltre a voi? Volevate affogarmi?» «Vado a prendervi una candela, signore. Alzatevi in nome del cielo. Qualcuno voleva farvi del male, dovete scoprire il prima possibile chi è stato e cosa ha fatto.» «Ecco, mi sono alzato. Andate pure a prendere la candela, ma a vostro rischio e pericolo. E aspettate 2 minuti a tornare, che mi possa mettere addosso qualcosa di asciutto se c'è. Sì, ecco la mia vestaglia. Su, andate.» Corsi via e rientrai di lì a poco con la candela rimasta sul ballatoio. Lui me la tolse di mano e la sollevò per esaminare il letto, tutto annerito e bruciato, le lenzuola zuppe, il tappeto intorno, bagnato fradicio. «Cosa è successo?» «E chi è stato?» domandò. Gli riferii brevemente quello che era accaduto, la strana risata che avevo sentito sul ballatoio, i passi che salivano verso il terzo piano, il fumo il cui odore mi aveva condotto nella sua stanza, quello che avevo trovato lì e come lo avevo annaffiato con tutta l'acqua che ero riuscita a trovare. Ascoltò molto seriamente. Il suo viso, man mano che andavo avanti nel racconto, esprimeva più preoccupazione che stupore, e quando ebbe finito rimase per un po' in silenzio. «Devo chiamare la signorina Fairfax?» chiesi. La signorina Fairfax? No, perché diavolo volete chiamarla? Cosa può fare lei? Lasciatela dormire indisturbata. Allora vado a chiamare lì, a svegliare John e sua moglie. Assolutamente no. State ferma lì. Avete solo uno scialle. Se non vi tiene abbastanza caldo, potete prendere il mio mantello. Eccolo là. Avvolgetevi bene e sedetevi in poltrona. Ecco, ve lo metto io. Adesso appoggiate i piedi sullo sgabello, così non vi bagnate. Vi lascio sola per qualche minuto. Prendo la candela. Rimanete dove siete finché non torno, ferma, immobile. Devo salire al terzo piano. Ricordate di non muovervi e non chiamate nessuno. Uscì e io guardai la luce che si allontanava. Percorse il ballatoio in punta di piedi. Aprì la porta delle scale facendo meno rumore possibile. Se la richiuse alle spalle e l'ultimo bagliore svanì. Rimasi nella più completa oscurità. Tesi l'orecchio per cogliere qualche rumore, ma non udii nulla. Passò un bel po' di tempo. Cominciai a sentirmi stanca. Faceva freddo, nonostante il mantello, e non vedevo il motivo di rimanere, visto che non dovevo svegliare nessuno. Rischiavo di contrariare Rochester per aver disobbedito ai suoi ordini, quando vidi nuovamente baluginare una luce sul muro del ballatoio e udii il fruscio dei piedi scalzi sulla passatoia. Speriamo che sia lui, pensai, e non qualcosa di peggio. Rientrò, pallido e cupo in faccia. Ho scoperto tutto, disse posando la candela sul lavabo. È come pensavo io. E cioè, signore? Non rispose, ma rimase lì con le braccia incrociate guardando a terra. Tese la mano, io gli diedi la mia. La prese dapprima con una, poi con entrambe. Mi avete salvato la vita. Sono felice di avere un debito così grande nei vostri confronti. Non posso dire altro. A nessuno mai avrei sopportato di dovere tanto, ma con voi è diverso. Quest'obbligo nei vostri confronti non mi è di alcun peso, Jane. C'era una strana energia nella sua voce e uno strano fuoco nel suo sguardo. Sono felice di essere stata sveglia, dissi, e di nuovo mi mossi per uscire dalla stanza. Come, ve ne andate dunque? Ho freddo, signore. Freddo? Sì, e siete ferma in una pozza d'acqua. Andate dunque, Jane, andate. Ma continuava a tenermi la mano e io non riuscivo a liberarla. Fui costretta a inventare un espediente. «Mi sembra di sentire la signora Fairfax, signore», dissi. «Bene, lasciatemi allora». Allentò la presa e uscii dalla stanza. Tornai al mio letto, ma di dormire non se ne parlava nemmeno. La ragione si opponeva al delirio e il senno ammoniva la passione. Troppo in subbuglio per riposare. Appena spuntò il giorno mi alzai. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.